Allora, uno degli intenti dell'aprire il proprio statuto espressivo, cioè la scrittura, la fattispecie, la pittura, era quello di ampliarla, no? Di ampliarla. Per esempio, prendendo questa modalità che è tipica della pittura impressionistica, appunto, dipingere l'effetto che si produce. Quindi l'idea era quella di, l'idea di Mallarmé naturalmente era quella di fare una sorta di scrittura impressionistica che anch'essa, più che dire le cose, producesse un effetto. Questo mancato rapporto con la denotazione è anche quello che rende particolarmente difficile la comprensione di poesie, per esempio, come quelle di Mallarmé, e in genere le poesie simboliste, non so, perché non rappresentano cose tanto quanto invece vogliono rappresentare l'effetto che le cose producono. Allora, se io metto, per esempio, mi viene in mente in questo momento, se io metto una mandola, cioè uno strumento simile al mandolino, in una certa contestualità, non mi interessa a me poeta tanto lo strumento musicale in se stesso, ma le immagini che possono venire nel lettore a quando vedo questo strumento. Se ben ci pensate, è proprio una caratteristica dell'età romantica e dell'età simbolica decadente, poi non si è più andata smarrendo in fondo, quella di voler riprodurre l'effetto. Quindi quando si dice che il impressionismo è finito, dicevamo l'altra volta, è finito in una certa data, si dice qualcosa di storicamente vero, ma anche di impreciso, perché è vero che è finito in una certa data, cioè noi non abbiamo più quadri impressionisti, si può dire, a partire dagli inizi del secolo, ma è anche vero che poi in fondo produrre l'effetto e non descrivere la cosa, questa è una cosa che i pittori d'oggi, tutto quello che è successo nella pittura, evidentemente questo principio ce l'hanno ancora. Un secondo motivo per cui la scrittura, nel caso di impressionismo, nel caso di Mallarmé, si apre alla pittura, è proprio il gusto della contaminazione scrittura-pittura. Si vorrebbe che la scrittura si riempisse di sguardo. Quando vi dicevo prima che i personaggi che appaiono nella poesia di Reverdy sono personaggi che agiscono, ma sono soprattutto lì per essere guardati, vi dicevo un qualcosa che si riallaccia a questo, insomma. Aprire la scrittura allo sguardo. Voi pensate quanto questo sia tipico del tempo e quando non si trovi in altre poesie. Per esempio, Invento in questo momento. Se noi prendiamo la poesia di Dante, non lo so, lo sto dicendo in modo quasi interlocutorio a voi, ma la potenza del messaggio è tale che il problema dello sguardo, il problema dell'effetto che si produce, sono problemi secondari. E sarebbe per dire che proprio questo è tipico del moderno, l'effetto che si produce, cioè questo spostamento, slittamento continuo del lavoro artistico verso l'effetto che si produce e non più verso la cosa in se stessa. Pensavo a un regista che a me non piace affatto, ma che è diventato un grande regista di oggi, un notevole regista, che è David Lynch. Qualcuno avrà visto qualche film di Lynch, che sono film assolutamente incomprensibili, ma sono esattamente basati su quest'idea, insomma, che la cosa importante è produrre l'effetto. Quando la scrittura si apre alla pittura, cosa succede? Succede in qualche misura che, e stiamo vedendo l'esempio di Mallarmé, che si dimentichi, no? Dimentichi se stessa, e si dimentichi per ragioni che vorrei dire sono anche snobistiche. Cioè è come se la scrittura dicesse: io posso fare a meno di me stesso. E quindi io posso aprirmi ad altri statuti espressivi, alla pittura. Snobistici nel senso che viene da pensare che lo scrittore che si apre alla pittura dice: mi sono stufato della scrittura, non voglio più semplicemente scrivere, voglio trovare nuove forme d'arte. Tutto il moderno d'altra parte è contrassegnato dalla ricerca di nuove forme d'arte. Pensate nel Novecento quanto questo sia stato significativo, quando oggetti triviali venivano esposti nelle mostre, a partire dalla famosa, vi ricordate, merda dell'artista. Ma qual è lo scopo di tutto questo? Lo scopo è aprire i confini dell'espressività. Fin quando si possono aprire, voglio dire, i confini dell'espressività? Illimitatamente? Io direi fino ai limiti della intelligibilità, oltre è impossibile andare. Ecco perché il lavoro di Joyce, il sommo lavoro di Joyce, in cui ha certamente aperto i confini dell'espressività, come non nel senso della pittura, ma nel senso anche della scrittura che lavora su se stessa, trova, a mio modo di vedere, un limite proprio in Finnegan's Wake, perché siamo ormai nell'inarticolato, insomma. Molte forme moderne che non si curano più minimamente dell'intelligibilità si sono appassite. Io pensavo alle cose che si leggevano negli anni 60, che venivano soprattutto dalla Francia. Cioè nell'aprire, il concetto è questo, nell'aprire la propria espressività vi sono dei limiti, e i limiti sono rappresentati dall'intelligibilità. È chiaro il concetto? Se io non posso, se io arrivo al suono inarticolato, sono concetti molto difficili, a questo punto posso avere una percezione frammentaria, episodica, superficiale. L'altra sera sono stato a un concerto a sentire una cosa che più tradizionale non poteva essere, cioè non stava Mater di Rossini, ma c'era la prima parte, una cosa famosissima, la Sinfonia di Luciano Berio, che è stato nella musica contemporanea, nel secondo Novecento, pochi esempi notevoli, amico di Umberto Eco. Io, devo dire, ho una certa diffidenza che deriva dalla mia entrata nei confronti della musica contemporanea, mentre la letteratura e l'arte di piccolo molto, no, mi sono messo di busto buono per cercare di capire questa sinfonia cos'era, insomma. E ho avuto però la sensazione che fosse davvero una corsa verso dei confini del mondo, direi in questo modo qua, ad arrivare a luoghi estremi, ma mantenendo una logica. La sinfonia è un poema del 68, del 68, e del, non so se fatta del 68, ma comunque di quell'epoca culturale politica, insomma. e si sentiva, si costruiva questa ideologia che stava dietro, quindi non era inintellegibile, ecco. E pensavo che nell'aprire il confine della propria espressività, questo è un concetto fondamentale, questo della intelligibilità e inintelligibilità, perché vedete, ci sono forme d'arte che sono estreme, ma tu avverti l'intelligibilità. Forme d'arte invece in cui questo limite non è più avvertibile. La scrittura si dimentica per una forma di sdoganismo. Posso fare a meno di me stesso, posso aprirmi tranquillamente ad altre forme espressive. Si dimentica e si apre la pittura anche per un'altra ragione, perché la pittura le dà una tangibilità superiore. Le dà quella materialità di cui con le parole sole non si arriva a capo. Direi questi sono i due motivi. E adesso vediamo un altro caso di apertura della scrittura, non più alla pittura, tanto per fare un esempio, ma alla musica. Il caso più grosso, più clamoroso, più accessibile è quello di Verlaine. Verlaine ha fatto un art poétique, un marchigia, art poétique perché ha un marchigia, del 1874, che è una poesia molto bella, una poesia manifesta, per cui dice come, a suo modo di vedere, lo dice in poesia, come bisogna sentire. Questa poesia ha avuto giustamente una straordinaria e la poesia, molti di voi la conosceranno, che inizia con De la musique avant toute chose e si conclude con il celebre verso, voi che avete fatto tutto il resto è letteratura. Intendendo tutto il resto è letteratura, dà delle indicazioni, conclude dicendo tutto il resto è cosa che non vale la pena di essere seguita, perché la cosa invece che vale la pena soprattutto seguire è la musica. Cosa intende lui per musica? Intende, direi, una cadenza dolce e per l'appunto melodica del linguaggio, che può essere raggiunta attraverso degli espedienti che lui indica. Per esempio, uno è quello del verso, che deve essere imparissimo. Noi abbiamo già avuto modo di soffermarci in passato, credo, durante il triennio, perché mi ha seguito su questa fondamentale questione dei versi parisillabi e dei versi imparissimi. Voi sapete che il francese predilige i versi parisillabi, e tra i versi parisillabi predilige massimamente la versione. Qual è la caratteristica del verso? Ricordate Alessandrino, 12 sillabe, può averne 13, ma quella tredicesima è muta. L'Alessandrino è un verso scandito. I versi parisillabi sono scanditi, no? L'angiurato e vischia pontida convenuti dal monte e dal piano. Tutto questo ci infastidisce noi moderni, i versi parisillabi ci infastidiscono, perché c'è una cantilena che ci impedisce l'evocazione, c'è una quadratura eccessiva. Noi moderni non vogliamo le cose in cui non si riesca a immaginare, non si è. Mi colpisce molto di vedere, per esempio, certi grandissimi autori cinematografici che però erano iperrealisti non nel senso di iperrealismo, quello della corrente pittorica, nel senso che erano iper trattino realisti, nel senso che erano più realisti, non dico delle repere, sì, di un'altra cosa. Visconti, Lucchino Visconti, no? I film di Visconti che mi piacciono moltissimo, però tutto è lì, nulla è immaginato. Pensate che quando ci fu la versione del giardino dei ciliegi di Chekhov, Parco del Conti al Valle, al Teatro Valle, periodo, voi naturalmente non eravate nati, non erano nati neanche così, i vostri bisnonni, i trisnonni, sarei per dire, sapete cosa aveva fatto Visconti nel suo gusto di realtà, nella sua volontà di non lasciare immaginare nulla? Aveva preso un ciliegio vero e aveva piazzato in scena questo ciliegio. Più realtà di così, no? Noi non vogliamo le cose, i moderni non vogliono le cose quadrate. Comunque Verlaine in questo senso ha stabilito un gusto dei moderni. Le cose troppo squadrate, i versi tali sillabi non li vogliono. Quindi non vogliono, per esempio, stando su questa stessa lunghezza d'onda, la rima eccessiva dà fastidio. Poi i moderni scrivono anche in rima, però voi capite perfettamente che la rima crea una concatenazione per cui l'uomo moderno una poesia di Arnaldo Fusinato, che era un poetastro dell'Ottocento, che amava molto la mia giunta zia, che mi allevò, e mi recitava queste canzoncine orrende sulle righe della lona, quale serpine argentata, corre via per 100 miglia, quale è immacolata. Dov'è la cosa? Questo è forse cosa molto belle, no? Ma non mi dubbio che la rima, se non sia sapiente, la rima toglie spazio. Vogliamo approfondire, dato che siete grandi ormai, no, questo concetto, che la rima toglie spazio? Molti moderni l'hanno usata con grandissimi effetti, lontani da usare, ma erano rime costruite con grande sapienza. Mi segue bene? Noi vogliamo una persona in rima? Lei che ne dice di questa domanda qua? Perché no? Lei ha un fidanzato? È in rima? Cos'è il fidanzato in rima? Cos'è il fidanzato in rima? Io penso prevedibile. Prevedibile, sì. Vogliamo toccare questo argomento che so che i vostri cuori devono sempre toccare. Cos'è una fidanzata in rima? E dica questo è giusto per me. Cosa vuol dire che una persona ha la rima? Per esempio delle sillabe alle quali ritorna continuamente. Non è tanto questione di sillabe. No, nel senso figurato, cioè dei luoghi, dei luoghi delle azioni o dei modi di dire, in questo senso. Cos'è che uccide in fondo il... Che cos'è che uccide il piacere? La rima? Sì. Ma insomma, però per esempio... Dica l'altro, perché invece c'è tutta una specie di rimaglio nelle cose sentimentali senza il quale noi ci troveremmo molto di tanto, non so, io di più, che il leitmotiv, se vogliamo, è essenziale non solo nella musica leggera, ma insomma in qualche misura una musica che non abbia dei ritorni ci sconcerta. Una canzonetta ce l'ha per forza nel tempo, no? Ritornelli. Ma una cosa è che vi siano dei ritorni, una cosa che vi siano delle rime. Non ho una tesi da dimostrare, sto semplicemente ragionando con voi di questo elevatissimo argomento. Quindi vi sono delle noi cerchiamo in fondo in una persona, un libro, la stessa cosa. Noi cerchiamo dei ritorni profondi, magari con cose della nostra esistenza. E siamo molto più diffidenti quando vediamo invece delle corrispondenze mordenti, stringenti, no? Delle rime. Una persona che parla in ripetere, anche io conosco un giornalista della RAI, ottimo amico, cara persona, che ha fatto il telegiornale della RAI per l'altro ieri, Mimmo Li Vuoto, quello con i capelli bianchi, cioè il DG3. che è una persona che ha un senso dell'umore molto codificato, e racconto delle tornielle, fa delle battutine. La prima volta, va bene. La seconda volta, mi ricordo c'era una ragazza, quando ero giovane, che aveva un ragazzo. Questo ragazzo faceva queste battutine. Era formidabile, in realtà, formidabile. Però io lo detestavo abbastanza. Uno, perché la ragazza era, non era particolarmente intelligente, ma era straordinario a Venezia, quindi faceva rabbia questo fatto, e quindi ero portato a una detrazione nei confronti del di lei fidanzato, un po' perché sembrava creativo, perché dicevo, ma non è possibile che uno faccia battutine così, no? Da mane a sera, eh? La rima era un uomo in rima, sostanzialmente, ci sono delle persone che si vestono in rima, capisci? Per esempio, io non ho nulla da dire, vado naturalmente al di là del seminato con i capita, ma per farvi capire l'importanza di questi concetti, non ho nulla da dire sulle mode che fanno parte dell'essere umano, insomma, la striscia nuda che le ragazze esibiscono fino a zona pubblica quasi, è l'idiozia della ripetizione che li congiunga, questo voglio dire, no? L'orecchino, uno ha il diritto avere l'orecchino, però per una donna ma possibile sempre quell'orecchino, sempre in quel posto. Sono queste le cose che ti uccidono. Poi in realtà uno pensa che quando va in uno scompartimento ferroviario si cerca sempre lo stesso posto, la stessa sistemazione, i viaggiatori di lungo corso, certamente abbiamo bisogno dell'ordine nella nostra stanza, abbiamo bisogno che la nostra cameretta o casetta, quella che diavolo sia in rima. Allora vedete che la questione è interessante, questo, eh? No, se non è in rima stiamo male, eh? E l'amico deve essere in rima. Se l'amico non è in rima, cosa succede? Succede che io mi aspetto da lui una risposta e l'amico non me la dà, no? Ecco, e questo mi sconcerta, mi sconvolge. A un certo punto potrei anche arrivare a dirgli, ma rima un po' di più, perché se non rimi non sarai più mio amico. Un amante che non rimi, ma nel campo della sessualità le rime sono formidabili, perché altrimenti addio orgasmo, non solo orgasmo, ma niente, c'è un senso di sgomento spaventoso. Immaginiamo che uno ha una sua logica, nel suo piccolo, amorosa, sessuale, eccetera, zac, questo cambia completamente i giochi, uno rimane sconcertato. Però resta vero che la rima eccessiva uccide. E quindi io vi lascio il discorso aperto nella sua problematicità, ma vorrei ricordarvi che, non abbiamo qui il testo, sono degli esempi che facciamo, che quando parla della rima per Glenn, e dice che la rima, non dice che bisogna pulirla, sentite che bella cosa che dice, dice che bisogna renderla assagì, cioè più saggia, non una rima stupida. Allora, vedete come la letteratura ci serve a vivere, eh? Bisogna che l'amico, l'amante, il compagno, uno stare per dire anche i genitori, ma lì è pretendere troppo, lì è pretendere troppo. Bisogna che rimino, ma non troppo. Ecco, quindi ecco un bel programma per l'arte. Bisogna usare i versi in parisillabi, bisogna, usando le nostre metafore sulla vita quotidiana, bisogna che il nostro amico sia in parisillabo. Bella questa idea, mi è venuta così, non ci avevo pensato prima. Chiedere al proprio amico che sia in parisillabo. Dice, guarda, ma hai stufato con questa tua maledetta parisillabicità, l'amico non capirà assolutamente niente. Devi essere un po' in parisillabo prima, ma insomma in modo più saggio, in modo più meditato. L'amico cosa potrà pensare? E che cosa bisogna privilegiare nello scrivere? Non i colori, pas la couleur, dice la bella, ma la sfumatura, la nuance, perché il colore è troppo determinato, il colore è troppo determinato, la sfumatura. Oh, naturalmente è inutile dire che all'eloquenza bisogna dare l'ostracismo, dice bisogna torcere il collo all'eloquenza. così configurata, la musica è quello che per certi aspetti è. E cioè, quello che Proust diceva, la musica che cos'è? È la comunicazione estrema tra le anime. Nulla fa comunicare le anime, no? Ci sono delle persone di sensibilità intellettuale pari a quella di un gnu che tuttavia amano, non so perché la sensibilità, che però amano moltissimo la musica, no? Non letteratura, perché è possibile, insomma, amano moltissimo la musica. Quindi la musica è una comunicazione istintiva e profonda che si stabilisce tra due persone, può che unisce due persone. È altresì vero però che tutto il duro lavoro sul pentagramma che la musica richiede è come tenere lei nella ritrarsi. Allora cerchiamo di capire cosa vuol dire questa apertura della letteratura alla musica. Prima abbiamo detto della letteratura alla pittura, è chiaro, no, il discorso? Adesso della letteratura alla musica. La ragione è la stessa. Si vuole ampliare le possibilità della scrittura, le possibilità della letteratura, e si vuole renderla musicale. In realtà questo problema della interdipendenza tra le arti, letteratura, cultura, musica, è un problema che comincia a porsi in questo tempo che stiamo considerando, nel secondo Ottocento, con grandissima forza. Questo tempo che si identifica nella sua parte più intellettualmente produttiva nel cosiddetto movimento del simbolismo. Cioè ogni arte è come se avesse fatica a restare dentro di sé, dentro i propri occhi. Quindi la letteratura si apre alla pittura, si apre alla musica. Perché questo desiderio di mettere le arti in rapporto tra di loro? Perché si avvertiva che il mondo da descrivere, quello esteriore, ma massimamente il mondo interiore, era complicatissimo. E allora sembrava che un solo statuto espressivo, cioè la letteratura, o la pittura, o la musica da sola, non potesse bastare a conquistare questo mondo così ricco. Bisognava in qualche modo adeguarsi nel mezzo espressivo alla complessità del mondo che via via si andava a scoprire. Uno dei casi più clamorosi di interdipendenza delle arti attuate da un solo artista, lo abbiamo nell'opera di Wagner. Nell'opera di Wagner non abbiamo evidentemente la musica, ma sarebbe errato dire che abbiamo solo la musica, perché tutta la struttura scenica di Wagner, tutta la struttura scenica è una struttura che ha a che fare con la pittura. Volevo dire una cosa che pochissimi sanno. A Bayreuth, che voi sapete è il tempio della musica, è il tempio della musica wagneriana, dove Wagner voleva che fosse rappresentato il Parsifal, e il Parsifal poteva essere rappresentato solo lì. I biglietti di rappresentarlo altrove sono caduti molto molto dopo. L'orchestra non c'era, era nascosta, perché la musica doveva venire da sotto e tutto doveva essere teatro, tutto doveva essere scena. Quanto alla portata letteraria, beh, Wagner era un filosofo, no? Tutto il testo wagneriano è costruito in chiave letteraria sui modelli. Per esempio, il Quarello dei Nibelunghi, no? L'Oro del Reno, sul modello di grandi leggende, quindi fatti letterari del passato. Ma è come se Wagner sentisse che questa compresenza delle arti fosse ormai inevitabile. Pensate quanto questo sia lontano da antiche concezioni della musica. Per esempio, mi sta venendo in mente, no? Stando sempre nell'opera. Nell'opera ottocentesca. Togliamo una interdipendenza di questo genere, lo sto chiedendo, lo sto chiedendo. Nella Traviata? Io non la noto. Io non la noto. La Traviata è musica, il testo è sbriciolato, no? È semplicemente un pretesto, no? Ma non c'è questo studiato amalgama. La Carmen di Bizet, nemmeno. Con Walter siamo invece con quest'idea. Confondere, miscelare, è pericolosissimo. È l'inizio del male, in una concezione anche ancestrale del male. No, pensavo che Sant'Agostino, per esempio, dice questo, dice che il male, ci stavo pensando l'altro giorno, ma quando, come fa uno a sopportare un momento duro della propria vita? Come fa? Lei non l'ha mai sopportato. Lei dice, ma di parte il cavo il suo. Con la disciplina. I carcerati fanno ginnastica, mi ricordo, no? Da un certo momento, non mi ricordo io. Ma mi ricordo Franco Preda, quello di Piazza Fontana, che era un atleta, con la disciplina. Diceva Sant'Agostino che il disordine è il principio del male. E allora capiamo perché. Perché Nietzsche sosteneva che Wagner, anche per questo, ha ammalato la musica. Ha ammalato la musica perché l'ha confusa. L'ha confusa con altre arti. Però il piacere di confondere è straordinario. Perché, capisci? Quando noi confondiamo, però ampliamo. Tant'è vero che noi ci innamoriamo del confuso. Che non sia troppo. Ma certamente non ci innamoriamo del teorema di Pitagora. Naturalmente in una prospettiva perversa ci si può anche innamorare di un'equazione di secondo grado. Questo è vero, un matematico lo fa. Meno b più o meno radice quadro di b quadro meno 4ac su 2a. Questa è la formula della prima. Questo non se l'aspettava. Io non se l'aspettava da me, Ma normalmente se io non so quale sia in questo momento l'attuale fidanzato della nostra amica e purtroppo non posso impierire, ma quanto prima prometto che lo farò, ma poniamo che questo nuovo fidanzato, scommetto 10 euro che nuovo fidanzato, gli dica, mia cara, o forse parlando in modo obeso, mia cava, io sono essenzialmente un'equazione di secondo grado. Lei cosa dice? Quando è tornata dalla voce matematica non è aria. Non è affascinante. Però vediamo, capite che cos'è che si affascina? Si affascina quello che lui dice, sapete cosa dice Marlene? Si affascina l'indeciso, questo è. Amate l'indeciso, al preciso, dice, usando le sue cantiene volutamente facili, al prezi, sostituite l'indeci, l'indeciso. Etimologia. Indeciso. Da dove viene? In, non, de, cido. Cido viene da cedo, tagliare. Cedo, cedis, cecidi, va bene, Gesù c'è. La cosa non tagliata, noi vogliamo la cosa non tagliata, l'arte deve essere non tagliata. Infatti, perché Émile Zola, poniamo, no? Il grande scrittore, perché ci interessa poco oggi? Perché i romanzi atesi, cioè i romanzi che vogliono dimostrare una certa tesi, ci interessano poco, sostanzialmente. Ci interessano poco. Ci sono magari dei titoli egregi, ma se vogliono dimostrare una certa tesi, il fascino è perduto. È perduto. Devono dimostrare, a meno che in certi casi, ma insomma noi non vogliamo la dimostrazione di tesi. Perché la politica culturale sovietica è così miseramente fallita? Perché i libri che permetteva, il Placido Domini, Sciolo, per dire, i libri che permetteva erano libri che obbedivano al realismo socialista e dicevano sempre la stessa cosa, insomma, no? Che bisogna scrivere dei libri che siano nell'interesse della collettività, insomma. Perché vi consiglio di leggere Nabokov, che vuole che la fuggiva dell'Unione Sovietica? Perché è un anarchico, ma un anarchico non in senso fatto, in senso è uno che cerca un orizzonte più ampio, un orizzonte più ampio. Tutti erano attratti da questa commissione. Uno che era attratto da questa commissione, andando un po' prima negli anni, sapete chi era? Era il grande, che poi era una specie di maestro di impeccabilità, il grande Volvo. Chi era Volvo? Adesso dovete appuntarvi bene quello che vi dico. C'è un modo, diceva Baudelaire, per poter descrivere un quadro. Il miglior modo è quello di scrivere un sonetto. Per descrivere un quadro, scrivere un sonetto. E cioè, dietro la stranezza, il concetto è abbastanza semplice. È abbastanza semplice. Il quadro ha un'anima, no? Quest'anima, tu certamente puoi descriverla e puoi dire quello che dicono tutti i critici d'arte. In una qualunque guida di museo, voi trovate che io non ho mai visto, amando l'arte, conoscendo me, quindi i museo intelligenti sono pochissimi. Io vedo cazzate aiose, perché in fondo si possono dire la luce viene dall'interno del quadro. Quante volte l'avete sentito? Senza fonti esterne, si guardi la rarefazione del colore della parte sinistra del quadro. La mancanza di serietà è sconvolgente, tutto questo, no? E uno, la cosa terribile, l'ho raccontato qualche volta, è vedere queste scolaresche umane che stirano davanti a questi quadri, trascinati da guide stolide, che credono di sapere qualcosa e parlano ad altissima voce, dicendo sempre le stesse cose, che la luce arriva, eccetera, eccetera. Questi guardano, oppure guardano la diascalia del quadro, magari sono quadri astratti, non ci si capisce un tubo, però c'è scritto sotto, tramonto in un giorno di luglio a Leningrado. Ma che, no? Ogni quadro ha una sua anima. La cosa importante, se poi è capito l'anima del quadro, è fare una poesia, dice lui, in cui ci sia quell'anima. Così descriverà il quadro. E vale l'opposto. Se tu hai capito un testo, se sei un pittore, e hai letto La montagna incantata, e hai capito l'anima della montagna incantata, allora fai un quadro, questo era facendo io, non è quello di Baudelaire. Fai un quadro in cui ci sia l'anima alto borghese di Thomas Mann. Torniamoci qui e continuiamo. Mi raccomando, per il libro di stare lì, però non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, non è un'altra cos